modalità appunto di lancio, di uscita nelle sale, che è solo per 3 giorni, ormai tutti sappiamo benissimo che il cinema è sempre una fruizione sempre più ad evento, per cui questi 3 giorni in realtà sono un piccolo inizio per noi come distribuzione per un percorso molto più ampio di eventi. Le abbiamo chiamate le I Wonder Stories, sono storie che con cadenza mensile portiamo al cinema, storie uniche. Abbiamo grandi partner della nostra e anche Radio Onda Rossa in questo, che ci aiuta sempre, ci fa parlare, ci dà voce. Ne avremo tanti altri, ne cito qualcuno così che forse è già arrivato alle orecchie, per esempio My Generation, film con Michael Caine che si è visto a Venezia. Insieme a questo avremo, e si vedrà a gennaio, l'appuntamento successivo dopo Manifesto sarà il film sull'Opera di Parigi, il 13 e il 14 novembre. Avremo poi a dicembre un altro biopic documentario su Marianne Faithfull, di una grande regista qual è Sandrine Bonnaire. Tanti altri, ve li citerei tutti, vi invito a seguirci sulla pagina Facebook, sul sito. Sono storie non convenzionali, molto oltre i soliti eventi. Ecco, proprio a proposito di queste storie non convenzionali, di questa serie di uscite, Dario, ti chiedo in quante sale sarà ogni film, se c'è già un piano prestabilito, insomma. Sì, il nostro obiettivo è quello di portare ciascun film in 100 sale in tutta Italia, ci siamo vicini, questa è la nostra prima uscita. Manifesto sarà in oltre 60 sale per questi 3 giorni, da Sciacca a Bolzano, per cui in tutte le grandi città, ma anche nelle città di provincia lo troverete. Di qui, questo punto di partenza ci porterà poi a costruire, ecco, una continuità che con gli spettatori siamo certi che diventerà un legame, un desiderio di tornare a vedere, lo speriamo. Sono grandi storie, grandi opere, e si avrà modo sicuramente poi di trovarle in ogni città. Dario, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, come sempre. Ciao. Dario Bonazzelli di I Wonder Pictures per la distribuzione del film Manifesto di Julian Rosenfeld, in uscita in sala il 23 ottobre prossimo per 3 giorni. Con Vincenzo Beschi di Avisco sulla giornata internazionale del cinema d'animazione a Brescia dal 20 al 29 di ottobre. Vincenzo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'invito. Allora, cominciamo intanto, sono curioso di questa sigla, cos'è Avisco? Dunque, Avisco è un'associazione che opera sul territorio bresciano da più di 30 anni e che si occupa da sempre di produzioni legate al mondo così della scuola e dell'ambito socioeducativo, e quindi propone così da veramente tanto tempo percorsi inerenti al linguaggio audiovisivo in generale, proprio nell'ambito socioeducativo, e creando molte produzioni, ma promuovendo anche percorsi di lettura cinematografica. Ok. Senti, questa giornata come nasce e come la vivrete a Brescia? Dunque, la giornata nasce perché aderiamo così a questa manifestazione che è un po' in tutto il mondo, che si celebra appunto la giornata internazionale del cinema d'animazione e che ricorda il 28 ottobre del 1892 a Parigi. Émile Reynaud fece la prima così presentazione del suo teatro ottico, quindi ancora prima dell'invenzione del cinema proiettò alcune immagini in movimento, e quindi questa giornata nasce proprio per ricordare questo momento della prima animazione della storia. Sì. E noi aderiamo appunto anche l'ASIFA internazionale, un po' in tutto il territorio del mondo presenta delle manifestazioni, e noi come associazione abbiamo ritenuto importante poter aderire, quindi promuoviamo alcuni eventi inerenti proprio al mondo del cinema d'animazione, sia per quanto riguarda delle attività pratiche, ma anche di visione di film, lungometraggi e corti. Senti Vincenzo, una curiosità, quando ha preso il via la giornata internazionale di cui non conoscevo l'esistenza? Dunque credo che sia da circa, cioè per quanto mi riguarda sono 3 anni che, okay, che l'organizziamo, a livello così generale non lo so, noi come a Brescia sono 3, la terza edizione. Senti, questi 10 giorni come saranno strutturati? Dunque partiamo subito questo weekend, il 21 e il 22 ottobre, quindi il sabato pomeriggio e la domenica tutto il giorno, quindi una cosa molto intensa, con un workshop sulla stop motion che sarà condotto da Michelangelo Fornaro, che è un animatore italiano molto così bravo, molto valido, con una sua ormai storia, e permetterà ai partecipanti di creare un piccolo pupazzo, proprio perché lui si occupa in modo particolare di puppet animation, e quindi in queste giornate e mezzo i partecipanti potranno realizzare un piccolo pupazzo che poi proveranno proprio anche ad animare, quindi una cosa un po' particolare, molto interessante anche sul territorio bresciano. Diciamo che è un evento abbastanza nuovo come tipologia di, cioè, l'anno scorso per esempio abbiamo fatto un workshop con Vincenzo Gioanola, che invece ci ha insegnato un po' come si può fare un film d'animazione con disegnando direttamente sulla pellicola. Sono coinvolti anche istituti scolastici? In questo workshop no, è proprio dedicato solo ad adulti. No, dico in generale la... No, diciamo che sì, è aperto al pubblico di tutta l'età, diciamo le varie manifestazioni, okay, però non ci riferiamo in modo particolare a istituti scolastici. Ok. Senti, gli orari saranno per tutto il giorno, iniziative, come funzionerà? Ecco, dopo questo workshop di sabato, quindi un sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, poi si andrà proprio al 28 ottobre, che è la giornata proprio ufficiale della giornata dell'animazione, in collaborazione col Cinema Nuovo Eden, ci saranno delle presentazioni di alcune importanti realtà che fanno film d'animazione. Nel pomeriggio alle ore 16, per esempio, abbiamo la presentazione di una carrellata di alcuni film di Jiří Bredka, che è uno dei principali animatori, è stato uno dei principali animatori della Repubblica Ceca, e ci sarà proprio la figlia Teresa, che è una scrittrice giornalista, che presenterà al pubblico una selezione dei principali film del padre, che è stato proprio uno dei maestri dell'animazione ceca, e quindi è un'occasione veramente un po' unica, e questo è alle ore 16. Mentre la sera abbiamo la presentazione di Manival di Kintis Lundgren, che è un'animatrice estone, che ci presenta questo suo corto animato molto, molto particolare e molto interessante, seguito poi dal lungometraggio Gatta Cenerentola, che sarà tra l'altro presentato dall'art director, che adesso mi sfugge il nome, buco di memoria, comunque che siamo riusciti a contattare e che molto gentilmente ci presenterà. Mentre la domenica alle 16 ci sarà sempre un lungometraggio in collaborazione con il Cinema Nuovo Eden, Ozzy Cucciolo Coraggioso, con una anticipazione di un film realizzato all'interno dell'ospedale dei bambini di Brescia, all'interno del progetto Cartoni Animati in Corsia, Le Mutande di Orso Bianco. Queste sono le principali manifestazioni che avvengono intorno al 28 ottobre. Poi al 7 novembre avremo all'interno dell'ospedale pediatrico di Brescia la proiezione di una selezione di corti di animazione realizzati proprio dai pazienti che sono all'interno dell'ospedale, e che insieme a questi corti ci saranno anche dei corti dello studio DA di San Pietroburgo, che anche lui lavora all'interno dell'ospedale, e quindi realizza film d'animazione con i bambini. Vincenzo, per tutte le informazioni sulla programmazione ci lasci dei riferimenti internet? Esatto, dunque tutto si può trovare sul sito della nostra associazione www.avisco.org. Ci tengo a ricordare che la manifestazione è realizzata anche in collaborazione con il Bergamo Film Meeting, che appunto ha permesso di avere alcuni autori presenti, e anche nella selezione ha dato un contributo molto molto importante, quindi ci tenevo a sottolineare questa collaborazione. Vincenzo, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille a te del fatto di averci dato spazio. A presto, ciao. Buona giornata, grazie. Ciao. Vincenzo Beschi di Avisco sulla giornata internazionale del cinema d'animazione a Brescia dal 20 al 29 di ottobre. Ritroviamo Andrea Segre, regista del documentario Ibi in uscita in sala oggi 19 ottobre, giovedì. Andrea, ben ritrovato. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, due uscite consecutive per te, prima è stata La volta dell'ordine delle cose, adesso questo documentario, ce lo descrivi in breve? Sì, intanto lasciami spendere un secondo sull'ordine delle cose, che continua a viaggiare in giro per l'Italia, che è arrivata quasi a 50.000 spettatori e continua a difendersi e a far parlare e a discutere di cose molto importanti. Così spero sia anche per Ibi, che esce appunto oggi in diverse città in Italia. A Roma è all'Apollo, ieri abbiamo fatto un'anteprima molto partecipata. Ibi è la storia di Ibi, perché è un film che in realtà è fatto da Ibi. Ibi era una donna che ha passato molta parte della sua vita in Italia senza poter vedere i figli, e così ha iniziato a filmarsi, a fotografarsi, a raccontarsi per far vedere la sua vita in Italia, e da questa necessità poi è nata un'arte, insomma, di difficoltà sfavvittù, si dice, e Ibi ha iniziato a produrre arte, a produrre fotografia, a produrre cinema, e quando purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa, insieme a suo marito e ai suoi figli, abbiamo deciso di montare un film a partire dalle sue immagini, e così oggi Ibi in qualche modo può continuare a raccontare, a raccontarsi e a raccontare un paese che purtroppo non l'ha mai riconosciuta, perché Ibi non è mai riuscito a ottenere permessi di soggiorno, e quindi è sempre stata irregolare, illegale, e in questa esistenza irregolare la sua arte è stato il suo modo per esistere, e la sua arte oggi la fa esistere anche dopo che ci ha lasciato. Senti Andrea, come hai incrociato la sua traiettoria? Ibi faceva parte, era una delle anime più importanti del movimento migranti e rifugiati di Caserta, che è una delle realtà più capaci di interagire col fenomeno dell'immigrazione come cartina di tornasole delle ingiustizie, delle violazioni di oggi e anche delle trasformazioni della nostra società. E Ibi era molto attiva in quel movimento, Ibi è ancora, ogni volta che il movimento fa manifestazioni, incontri, c'è la fotografia di Ibi davanti al corteo. E con loro io avevo collaborato già diverse volte, a partire dal Sangue Verde, anche Come il peso dell'acqua, e proprio durante le riprese di Come il peso dell'acqua facevamo un'intervista a un'altra donna del movimento, che però non poteva essere filmata nella sua casa, e Ibi ci prestò il suo salotto, e così la conobbi, e questo salotto era strapieno di fotografie in ogni angolo, e lei mi chiese se io ero un regista vero, e gli ho detto: beh, ci provo, perché io anche vorrei essere regista vera, e mi raccontò tutta la sua voglia di raccontare, e mi fece vedere qualcosa, e da allora ci eravamo detti che avremmo provato a fare un film vero insieme. E purtroppo non abbiamo potuto farlo davvero insieme, ma in qualche modo questo è il film che avrei voluto fare con lei. Senti, nel documentario si vede anche molto del suo quotidiano relativo, come dicevi appunto, al movimento dei migranti a Caserta. Ecco, cosa ha realizzato quel movimento e che conquiste ha ottenuto? Ma non solo il movimento, non è soltanto un grande movimento per la sua capacità di mobilitazione, ma anche proprio per le sue capacità di conquista. Sì. Pensa che il movimento è riuscito in anni di mobilitazione a convincere lo Stato italiano che le persone possono ottenere un permesso di soggiorno anche senza dover dimostrare di aver bisogno di protezione umanitaria, che è questa distorsione che il sistema di chiusura dell'Europa ha prodotto, cioè facciamo fare richiesta d'asilo a tutti perché non esiste più la possibilità di viaggiare normalmente. Il movimento ha molto insistito su questo e ha ottenuto centinaia di permessi di soggiorno per persone che erano realmente integrate nel tessuto sociale e che avevano bisogno anche di un sostegno da parte dello Stato, perché il tessuto sociale in cui sono integrate è molto complesso, come la provincia di Caserta è, non solo per gli immigrati ma anche per i tanti giovani che infatti fanno parte del movimento, e oggi gestisce non soltanto, appunto, continua ad essere un grande movimento, ma gestisce anche dei progetti di accoglienza SPRAR e altri progetti che hanno anche ottenuto il sostegno e il finanziamento di, da parte della, dello Stato, della Regione, il riconoscimento di un ruolo che il movimento ha ormai di vero e proprio soggetto di mediazione culturale, di costruzione di uno sviluppo sociale. Anche da quello che si vede nelle immagini, i migranti di provenienza africana costituiscono un vasto settore di lavoratori, né soprattutto agricoli nel casertano. Sì, quello di cui stiamo parlando appunto è questo, cioè noi abbiamo migliaia di persone che vivono e lavorano nel nostro tessuto sociale economico e che sono costrette forse dalle regole stesse di quel tessuto economico a vivere nella irregolarità e quindi a non poter vedere rivendicati i propri diritti. Eppure lo Stato italiano, l'economia italiana, il Stato europeo, sappiamo bene quanto ha bisogno di questa forza lavoro, però preferisce averla irregolare in modo tale da poterla sfruttare. Regolarizzarla vuol dire riconoscerne i diritti e la capacità di chiedere rispetto di quei diritti. Il movimento si inserisce in questo vuoto e Ibi era un'anima fondamentale di questo movimento. Ma il film è anche un film sull'arte, sull'arte che nasce dai luoghi più difficili, no? E in fondo, se ci pensiamo alla storia dell'arte, alla storia dell'umanità, forse gli artisti, quelli che davvero hanno cambiato qualcosa, quelli che hanno davvero saputo reinterpretare la realtà in maniera non prevedibile, sono proprio quelli che hanno vissuto in realtà più dure, più difficili, nei margini, nelle periferie, lì che poi nasce la vera creatività. Ibi è un artista che in qualche modo penso ci aiuterà, almeno a me ha aiutato e mi auguro che sarà così anche per tanti altri, a rivedere il nostro rapporto con questo paese, con questo momento della nostra storia. Andrea, in chiusura ci lasci dei riferimenti in rete per saperne di più su questo documentario, anche per quanto riguarda le sale a disposizione? Sì, il documentario è prodotto da Iole Film e Rai Cinema ed è distribuito da Zalab, e quindi tutte le informazioni per poterlo richiedere e organizzare proiezioni si possono avere tramite il sito di Zalab, zalab.org, e la mail di distribuzione @zalab.org, alla quale si può chiedere anche di poter portare in giro per l'Italia la prima mostra fotografica di Ibi, perché abbiamo appena finito di stampare e verrà tra poco la prima mostra fotografica, che sarà ospitata da sabato alla Reggia di Caserta fino alla fine del mese. È un momento molto importante di riconoscimento da parte delle istituzioni del ruolo artistico di Ibi, e da novembre potrà essere richiesta, potrà viaggiare in giro per l'Italia insieme al film. Benissimo. Andrea, t'abbraccio, a risentirci presto. A presto, grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Andrea Segre, regista del documentario Ibi, in uscita in sala oggi giovedì 19 ottobre. Allora, con noi Gianluca Farinelli, non era inserito in scaletta, ma comunque ci eravamo messi d'accordo per oggi e quindi lo sentiamo per il restauro del film Blow Up di Michelangelo Antonioni, che sarà qui a Roma lunedì al Cinema Nuovo Sacher. Gianluca, intanto ben ritrovato. Ciao Federico, un piacere sentirti. Allora, un restauro importante per un film importante, raccontaci un po'. Sì, Blow Up è un film che apre molte strade, apre la vita internazionale del cinema italiano, perché è un grande film diretto da uno straordinario maestro, da Michelangelo Antonioni, ferrarese, che con il suo sceneggiatore, con Trino Guerra, decidono di raccontare questa, di prendere come protagonista uno dei protagonisti di quegli anni, cioè un fotografo capace di raccontare la realtà ma anche la moda, in una città che stava rapidamente cambiando e che stava diventando il ponte tra l'Europa e gli Stati Uniti e la città più moderna d'Europa, la Londra dell'eleganza, dei Beatles, dei Rolling Stones, di tutti i movimenti che attraversavano il mondo degli anni 60. Gianluca, credo che sia stato nell'ambito della nostra cinematografia forse l'unico caso in cui un nostro autore ha intercettato lo spirito di un'epoca, in questo caso della Swinging London. Sì, Antonioni riesce a fare una cosa che è difficilissima, con un regista che lavora all'estero, che è un caso molto diverso dai grandi registi che dall'Europa emigrano negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40 verso gli Stati Uniti e poi lì lavorano stabilmente cambiando l'industria americana. Ma in questo caso un regista che non aveva mai girato a Londra, che poi non avrebbe fatto altre cose in quella città, che riesce a rappresentarla come in fondo nessun altro era riuscito a fare fino a quel momento, ecco, riesce a cogliere e anche in qualche modo ad anticipare, come se Antonioni avesse delle antenne così raffinate da capire quello che Londra stava diventando. E il film resta nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, ed è anche un film importantissimo per molti motivi, e tra questi vi è sicuramente la fotografia, la qualità dei colori, la qualità della fotografia. È un film diretto, la fotografia è di questo maestro straordinario che è Carlo Di Palma, che ha veramente insegnato al mondo come raccontare, come riprendere a colori il mondo, che aveva che ha lungamente lavorato con Antonioni, aveva già aveva già fatto il primo film di Antonioni a colori, Deserto Rosso. Sono veramente delle pietre miliari del cinema e di come si poteva fotografare a colori. E un'altra pietra miliare è la colonna sonora di Herbie Hancock. Sì, è una colonna sonora che permea il film. Il film ha un, come spesso in Antonioni, ha una profondità musicale, un ritmo musicale divino. È anche un film che rivela una nuova generazione di attori, da Vanessa Redgrave a Danny Demings, alla Birkin anche, che ha un piccolo ma molto significativo ruolo. È veramente un film che, a distanza di 50 anni, perché poi il film uscì nel 67, vinse la Palma d'Oro a Cannes, mantiene tutta la sua incredibile novità. E il restauro di questo film era qualcosa a cui tenevamo da molti anni. La Warner ci ha messo a disposizione i materiali, perché il film fu prodotto dagli americani, da Hollywood, e abbiamo chiesto a un grande direttore della fotografia di oggi di aiutarci a ritrovare tutta la bellezza dei colori originali. E Luca Bigazzi, che è il grande direttore della fotografia, tra gli altri, diciamo, di Sorrentino, ma non solo, ha una carriera pazzesca, è veramente uno dei grandi direttori della fotografia, non solo in Italia ma nel mondo. Pensate cos'è la grande bellezza, ecco, qual è la sua veramente capacità di reinventare continuamente il colore. E ecco, ci ha aiutato ad avvicinarci ai colori originali, e credo che il risultato sia molto sorprendente, perché nello stesso tempo mantiene le caratteristiche di un film di 50 anni fa, quindi non è un restauro modernista che cerca di dare dei colori che il film non ha mai avuto, ma credo che tutta la sorpresa dei primi spettatori la possono avere anche gli spettatori di oggi attraverso questa versione restaurata. Gianluca, viene presentato al Sacher, 4 spettacoli, e chi va allo spettacolo delle 18 può vedere anche il documentario di Valentina Agostinis, che è una bravissima giornalista e documentarista italiana, che ha fatto un documentario molto interessante che si chiama Blow Up su Blow Up, andando a Londra e ritrovando i luoghi e le persone che collaborarono con Antonioni per fargli conoscere la come tu hai giustamente ricordato, la Swinging London. Bene, allora, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti internet? Sì, beh, sul sito della Cineteca di Bologna c'è tutta la parte di approfondimento legata al cinema ritrovato, al cinema che è il nostro progetto, un progetto che vuole riportare il cinema del passato nelle sale italiane, quindi affinché in Italia succeda come succede in molti paesi del mondo, che accanto alla stagione dei nuovi film c'è anche la stagione dei film antichi, perché se ci siamo innamorati del cinema è perché i film li abbiamo visti in sala, perché insomma Blow Up si può vedere anche su uno smartphone naturalmente, ma vederlo in sala è tutta un'altra cosa. Gianluca, ci diamo appuntamento per una delle prossime uscite allora. Assolutamente, con grande piacere, e grazie per il sostegno costante che ci avete dato. Un abbraccio, a presto, ciao. Grazie, ciao, ciao, ciao. Gianluca Farinelli della Cineteca di Bologna sul restauro del film capolavoro di Michelangelo Antonioni, Blow Up, che sarà lunedì per 4 proiezioni al Cinema Nuovo Sacher qui a Roma. Eccoci con Stefano Finesi della Farfalla sul Mirino, curatore della 7ª edizione della rassegna Qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 24 ottobre fino al 29 maggio del 2018. Stefano... Ciao Federico, ciao, ciao a tutti. Sì, ormai siamo arrivati alla 7ª edizione, insomma la formula è sempre quella, sono grandi film della storia del cinema da rivedere in sala, in pellicola 35 mm, l'ingresso è gratuito come sempre, diciamo non c'è un filo rosso ma c'è... Quindi non possiamo fare il solito siparietto. No, non mi puoi chiedere se c'è un filo rosso, ti ho preceduto io stavolta. La chiave di lettura, diciamo, è che è una specie di festa cinefila, ecco, tutto qui. Okay, okay. Partiamo il 24 ottobre, Corre per una notte di Scorsese, che... Vabbè, è un film insomma che conosciamo tutti, è una grandissima commedia nera con un grandissimo De Niro. In più, diciamo, è una scelta di apertura che suona anche un po' come un omaggio a Jerry Lewis, che qui peraltro in una parte molto inusuale, diciamo, della sua carriera, e più alla fine è anche un film che ci parla, attualissimo, perché ci parla di quell'ossessione per la celebrità, insomma, che ormai è dilagante, ma che all'inizio degli anni 80 era, appunto, ci voleva veramente molto acume per prevederla. Sì, ecco. Sì. Senti Stefano, allora ti chiedo due cose. Quanti sono i titoli e poi che arco temporale coprono? Sì, sono 15 titoli e si va dal muto, perché abbiamo anche un Lubitsch muto, una vera chicca, il Matrimonio in quattro, film di Lubitsch del 1924, che peraltro, ecco, per chi anche ha riscoperto questo grande regista negli ultimi anni e anche con le riedizioni di To Be or Not To Be che c'è stata al cinema, ecco, venire anche a riscoprire la parte del muto della sua carriera, che è comunque di livello altissimo, questa è una buona occasione. E poi, ecco, arriviamo agli anni 30, agli anni 40, fino addirittura, diciamo, a un nuovo classico, che è Crocevia della morte dei fratelli Coen, che è un film del 90, quindi diciamo l'arco temporale è abbastanza ampio, e anche quello geografico peraltro, perché insomma andiamo appunto dai molti film della Hollywood classica, ma anche a uno dei primi film di Kurosawa, L'angelo ubriaco del 48, che peraltro è anche il primo film di Toshiro Mifune. E andiamo alla Russia di Ivan il Terribile ed Eisenstein, e l'Inghilterra di Losey con Hallucination, o di Powell e Pressburger con Narciso Nero. E poi c'è anche un Ferreri particolare, che è il Cocesito, che è uno dei primi tre film spagnoli di Ferreri, sì, sì. Un film del 60 e che è una chicca assoluta, insomma, e si riallaccia anche un po' all'anniversario che ci sarà l'anno prossimo per i 90 anni della nascita. Senti Stefano, quali saranno i giorni della settimana e quale orario? Sì, è sempre il martedì, un martedì, cioè tutti i martedì ogni due settimane, l'orario è sempre le 21, l'ingresso è sempre libero fino a esaurimento posto. Io ricordo sempre a tutti di venire magari un pochino in anticipo, che dalle 8 in poi, cioè dalle 20 in poi vengono messi in distribuzione i biglietti omaggio e niente, tutto qui. Bene, a questo punto anche i riferimenti web per il programma e tutte le informazioni utili. Sì, c'è il sito di Palazzo delle Esposizioni, palazzoesposizioni.it, altrimenti c'è anche il sito dell'associazione, lafarfallasulmirino.com. Benissimo. Stefano, un abbraccio, un in bocca Federico, al lupo. Federico, grazie mille. E ti seguiamo sempre. Grazie ancora. Ciao. Stefano Finesi della Farfalla sul Mirino, curatore della settima edizione di A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma dal 24 ottobre al 29 maggio del 2018. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta e sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari c'è la scaletta della trasmissione e tutte le informazioni relative ad essa, e poi anche c'è la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In collegamento con Andrea Pellitzer, co-regista del film My Name is Adil, in uscita in sala il prossimo 24 ottobre. Andrea, ben ritrovato su queste frequenze. Ciao caro. Tutto bene? Tutto benissimo, grazie. Allora, intanto per chi ci ascolta, raccontiamo brevemente la storia. Di cosa parla My Name is Adil? Ma My Name is Adil parla di Adil, che è un ragazzo che adesso ha quasi 30 anni, ma che quando l'abbiamo conosciuto ne aveva 23, e racconta la sua storia. A 13 anni si è spostato dal Marocco, da una zona del Marocco piuttosto, come dire, lontana da tutto. Siamo appena due ore da Marrakesh verso l'interno. Faceva il pastore e ha deciso di raggiungere il padre qui in Italia, a Milano precisamente, ed è racconta diciamo sia quando era bambino piccolo, quindi intorno ai 6, 7, 8 anni, e poi la parte di quando ne aveva 13, di quello che è stato il suo viaggio, ma soprattutto come si è ambientato, diciamo, in Italia. E il protagonista, che è anche co-regista insieme a Magda Zene, insieme a me, compare nel film in questo viaggio di ritorno verso la propria terra. Questo, diciamo, è il sunto della storia. Sì, anche vedendo le immagini dei titoli di coda si capisce che è stata un'operazione lunga e complessa. Sì, siamo ancora in ballo, il film è il 24, quindi ci consideriamo ancora tutti gli effetti in ballo su questo film. Il film è cominciato nel 2011, nel senso che ho conosciuto Adil prima nei campi di calcetto, era un mio compagno di squadra, e poi l'abbiamo coinvolto io e Gabriele Regnoli, che siamo grandi amici, lui è responsabile della parte educativa di una Onlus, nella realizzazione come aiuto per questo campus multimediale che abbiamo fatto in Friuli. Era un progetto molto grosso, molto ambizioso, c'erano più di 100 ragazzi da tutta Italia, ma anche tantissimi di origine straniera. Abbiamo lavorato con professionisti della fotografia, del cinema, della recitazione, musica, eccetera, a passare degli stimoli a questi ragazzi. Adile e Magda non erano proprio degli utenti di questo corso, ma ci hanno dato una mano a collaborare con questi ragazzi, anche se erano molto giovani, e ci siamo trovati molto bene sul lavoro, ascoltavamo la storia di Adil, diciamo del suo passato, e da lì è cominciato un po' tutto il percorso. Percorso lungo dove abbiamo scritto insieme la sceneggiatura, abbiamo fatto insieme diciamo l'operazione di crowdfunding, abbiamo fatto le riprese insieme, poi Magda si è occupata principalmente anche del montaggio, e insomma un progetto che è durato 6 anni. Sì. Due domande. La prima è com'è stato il suo approccio con l'Italia, come si è trovato? Ma diciamo, avevo un'idea dell'Italia completamente, come dire, sognante, nel senso che stiamo parlando di una regione, quello del Tazilal, poi non lo so pronunciare bene, dove ai tempi non era arrivata ancora la corrente elettrica, tantomeno la televisione, le informazioni eccetera, quindi vedeva il padre ritornare ogni 2 anni profumato con dei vestiti che non aveva nessuno da quelle parti, se lo immaginava un posto sospeso per aria. Questa era la sua idea prima di partire. Quando è arrivata in Italia invece si è scontrato con la verità, e cioè un posto che ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi, dove era difficile nel cambiamento di cultura imparare la lingua, inserirsi eccetera. Doveva lavorare, doveva vivere con il padre in situazioni un po' complicate. Diciamo l'inizio non è stato semplice, ma per niente proprio. Poi pian pianino invece, soprattutto quando è entrato in contatto con un centro di aggregazione giovanile, le cose pian pianino sono cambiate, anche e soprattutto con la scuola. L'altra domanda è sul ritorno: che significato ha avuto per lui? Il ritorno diciamo è partito un po' da questo campus multimediale che dicevo nel 2011, perché vedendo professionisti, fotografi, registi, insomma delle persone che utilizzavano il mezzo audiovisivo, gli è venuto voglia di ritornare insieme a Magda e di conoscere il suo paese, perché come tantissimi migranti, quando tornano nel proprio paese di origine vanno solo nella casa o nel paesino da dove vengono, invece in quel caso ha proprio fatto la scelta di conoscere un po' il resto di tutto il Marocco, quindi ha fatto un lungo viaggio e con questa camera, oltre a fare delle riprese degli spazi, ha cominciato a indagare, chiedendo alle persone in giro che opinione avevano della, in generale, sulle migrazioni, sulle persone che si spostano. Questo percorso poi, secondo me, in un altro modo, in una chiave se vuoi anche più poetica, c'è nel ritorno che si vede all'interno del film, perché racconta in qualche modo l'unione di due mondi che fanno parte del protagonista, quindi l'Italia e il Marocco, con un occhio forte, sensibile anche alle nuove generazioni, i bambini, i ragazzini, come vivono la vita adesso loro là, che è cambiata rispetto a 15 anni fa, e quali sono un po', come dire, i sogni un po' di tutti quanti. Senti, come uscirà nelle sale? Allora, il film è distribuito da Unisona Cinema, che ha avuto la capacità di riuscire a coinvolgere una 60ina di sale per l'uscita, diciamo, spot di questi 3 giorni di programmazione, 24, 25, 26. Poi, vista la lunga esperienza che hanno quelli di Unisona, è previsto una lunga, diciamo, programmazione per le proiezioni scolastiche. Noi eravamo contentissimi quando li abbiamo conosciuti, perché il nostro obiettivo era quello di far vedere il film al cinema, come immagino tutte le persone che realizzano un film, ma soprattutto di riuscire a portarlo nelle situazioni, appunto, dove ci sono le nuove generazioni, perché è un film proprio studiato sul coinvolgere attraverso la storia, che è un'evoluzione, quindi da un ragazzino delle elementari fino a uno delle medie barra superiori, quel tipo di punto di vista è importante per noi, per far conoscere, diciamo, ai compagni di classe, agli insegnanti, alle altre persone, che storia c'è dietro la storia di immigrazione. Quindi diciamo abbiamo trovato il partner giusto per portare in giro il nostro film. Questo è. Allora, io ti ringrazio. Diamo dei riferimenti web per saperne di più? Sì, allora, per vedere tutte le sale in Italia che programmano il film, bisogna andare sul sito Unisona Cinema e compare subito My Name is Adil, dove ci sono appunto tutto l'elenco, sia per le scolaresche che invece per le sale importanti, quelle dove noi ci saremo a presentare il film sono a Milano all'Anteo il 24, a Roma al Barberini il 25 e a Napoli al Modernissimo il 26. Però comunque in tutte le grandi città d'Italia il film si può tranquillamente vedere in quei giorni. Benissimo. Andrea, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie mille, a presto. Ciao. Andrea Pellitzer, co-regista del film My Name is Adil, in uscita in sala il prossimo 24 ottobre. Abbiamo con noi in linea Emiliano Colasanti di 42 Records per parlare della nuova collana in vinile dedicata alle colonne sonore e alle sonorizzazioni. Emiliano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, grazie mille. Allora, ci racconti un po' di questo progetto? Sì, è una cosa che ci ronzava in testa da un po' di tempo, nel senso che sia io che Giacomo Fiorenza, il mio socio, siamo molto appassionati di cinema prima di tutto, ma anche di tutto quello che ruota intorno al cinema e alla cosiddetta musica applicata. E Giacomo in particolare è proprio un collezionista di library music italiane e io stesso ho la passione per un certo tipo di colonne sonore che vanno insomma dalle cose più sperimentali di Morricone in giù, Migliani e tutto quel mondo lì. E per questo covavamo dentro di noi il sogno di poter fare qualcosa come etichetta legata al cinema, anche perché comunque insomma negli ultimi anni è anche capitato che i nostri artisti finissero a scrivere colonne sonore e cose del genere, quindi i mondi in qualche modo continuavano ad attrarsi tra di loro. Siccome quest'anno l'etichetta arriva a tagliare questo traguardo per noi veramente inimmaginabile dei 10 anni di vita, abbiamo detto dai, è arrivato il momento. Stavamo valutando più o meno il da farsi e con cosa partire e letteralmente ci è piovuto addosso la proposta di lavorare a Nico 1988, che è un film insomma importante di cui siamo anche proprio molto orgogliosi. In più gli autori della colonna sonora, Gatto Ciliegia, Contro il Grande Freddo, sono una delle prime band che noi abbiamo pubblicato quando siamo andati come label, quindi abbiamo visto questa cosa un po' come una serie di pianeti che si allineano e creano l'onda giusta, ecco. Senti, mi stava ronzando, non abbiamo avuto modo di parlarne, ci siamo sentiti solo stamattina al volo e non so se sai, ma con Ottavia Monicelli, figlia di Mario, che era un ascoltatore, sì, di Radio Onda Rossa, facciamo il giovedì dalle 3 alle 4 una trasmissione che si chiama Tracce di Cinema, dedicata alle colonne sonore dei film e alle musiche dei film, che riprenderà adesso ad inizi di novembre, e quindi si potrebbe pensare anche a una sorta di collaborazione viste le uscite che proponete. Ah, volentieri, molto volentieri, grazie. Bene. Allora, volevo chiederti anche, ecco, rispetto a Nico, mi aveva molto impressionato la colonna sonora anche con pezzi creati ex novo, ce ne parli un po' dal punto di vista musicale? Sì, la colonna sonora è veramente secondo me molto ambiziosa e anche molto rischiosa, perché comunque si basa in parte sulla rielaborazione di brani di Nico, ma che non sono semplicemente coverizzati, perché i brani sono tutti ricantati dall'attrice che, certo, interpreta Nico nel film, no? Ma è come se si trattasse proprio delle riscritture che seguono il linguaggio musicale che poi anima tutto il resto della colonna sonora, e quindi anche i temi, i brani originali, le robe proprio che sono puramente del Gatto Ciliegia Contro il Grande Freddo. Ovviamente insomma loro hanno avuto una specie di missione impossibile, perché dovevano far convivere quindi atmosfere molto diverse, tenendo conto che nel repertorio di Nico ci sono i suoi brani degli dischi solisti, e lei ha avuto una carriera solista abbastanza complessa e ricca di suggestioni veramente diverse e quasi opposte. Penso agli album sperimentali come Desert Shore e a cose invece magari un po' più tradizionali, e poi c'è il repertorio di Velvet Underground, di cui comunque anche nel film ci sono degli estratti, e All These Days di Jackson Browne, che è un brano che lei eseguiva, che lei ha registrato, insomma, che l'ha resa celebre. Anche una si tratta di di unire mondi musicali molto molto diversi e lontani, no? Ed è una cosa bella, secondo me, averci provato e riuscirci. In più ci sono anche delle canzoni degli anni '80, e nel film beh, ce n'è una che è fondamentale, insomma, che è Big in Japan, che sì, proprio a quella stavo per fare riferimento, esatto. Perché è una chiusura veramente sbalorditiva, è un pezzo tra l'altro di cui non conoscevo neanche la reinterpretazione di Nico, quindi per me è stata una rivelazione. Sì, ma tra l'altro la reinterpretazione di Nico di fatto neanche c'è, infatti non è riportata da nessuno. Sì, si sa che a un certo punto pare che lei dal vivo, verso gli ultimi anni della sua carriera, suonasse anche queste hit anni 80, un altro pezzo che tra l'altro è stato inciso per il film e poi non è finito nel film, è Wonderful Life di Black. e quella è una roba molto, cioè secondo me è una cosa quasi di quasi una distopia, cioè comunque interessante, sì. Avere adesso una reinterpretazione di Nico di un brano che in realtà tu non immagineresti mai fatto da lei, no? Sì, quindi. Cosa sarebbe successo se Nico avesse inciso Big in Japan? Quindi è anche interessante, poi sì. Perché sembra una sua canzone comunque. Sì. Senti Emiliano, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, c'è il sito dell'etichetta che è www.42 scritto numero records.it, o semplicemente cercateci su Facebook e lì trovate tutte quante, insomma, le notizie sulla pubblicazione della colonna sonora e di questa nuova collana di colonne sonore che si chiamerà 35 mm. Vi invito anche a seguire, insomma, i canali social dei Gatto Ciliegio contro il Grande Freddo, visto che loro peraltro non sono la prima esperienza, nel senso sono autori abbastanza conclamati di musiche per il cinema, da sempre lavorano appunto ai film di Susanna Nicchiarelli, ma non solo, quindi vi consiglio anche di scoprire la loro musica. Un'ultima curiosità, saranno uscite cadenzate? Guarda, sai che non lo sappiamo, nel senso che l'idea sì, è di farne 2-3 o addirittura, se ce la facciamo, 4 all'anno. Ok. Però non abbiamo ancora un tempo preciso, anche perché devo dire che noi, come appunto hai detto anche tu, ci vorremmo dedicare anche alla sonorizzazione, nel senso che abbiamo tipo sonorizzazioni complete fatte, insomma, da nomi importanti della musica italiana e non solo, e di film magari del muto, i primi horror del 1920, quindi lavori anche che vanno al di là della colonna sonora originale vera e propria, della soundtrack. Okay. Però da quando abbiamo lanciato una settimana fa il progetto, devo dire che siamo stati abbastanza investiti di un interesse che quasi non ci aspettavamo, e questo è molto molto bello, ma anche di richieste, anche perché effettivamente noi abbiamo al di là di tutto c'è un universo indipendente legato al cinema molto attivo, molto florido. Penso anche al grandissimo lavoro che si fa nel mondo dei documentari, in cui l'Italia peraltro ha un ruolo di primo piano, e quasi sempre ci sono delle musiche originali veramente belle, scritte da compositori di pregio, cioè proprio lavori fatti e finiti, che però non trovano una pubblicazione, perché è quasi un mercato che da noi non c'è. Esiste per le cose vecchie, esiste per le ristampe, ma non per le cose nuove. Quindi a sorpresa ci hanno proposto film che vengono presentati in festival come Berlino, e ovviamente questa cosa ci sta sconvolgendo i piani, perché noi cerchiamo sempre di seguire il nostro gusto, cioè di buttarci su una cosa se una cosa ci piace, però devo dire che c'è veramente tanta tanta roba bella legata al cinema e che passa un po' sotto traccia, legata insomma al mondo delle musiche delle musiche da film. E d'altronde siamo comunque l'unico paese del mondo dove la colonna sonora di Blade Runner è nuova, esce solo su Spotify e non nei negozi di dischi, mentre ovunque il disco lo trovi, sì, in qualche modo ci stiamo lanciando in un mercato nuovo, però è bello per quello, almeno per quanto mi riguarda. Senti, quindi 35 mm sarà il nome? Sì, 35 mm, okay. Come la pellicola. Ok, allora Emiliano, un abbraccio, speriamo di risentirci presto allora. Grazie mille, a presto. Ciao, grazie. Emiliano Colasanti di 42 Records su 35 mm, nuova collana in vinile dedicata alle colonne sonore e alle sonorizzazioni. Abbiamo con noi in linea Sergio Marchese di Essere Animali sul documentario The Last Pig di Alison Argo, che sarà al Cineclub de Tour oggi stasera, giovedì 19 ottobre. Sergio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, intanto ci racconti cos'è Essere Animali, che già dal nome sembra avere un'ottica antispecista. Esattamente, Essere Animali è una organizzazione relativamente giovane, nata in Italia 6 anni fa sulla scorta di una lunga esperienza di attivismo antispecista dei suoi fondatori, ed è un'associazione che fondamentalmente si propone in qualche modo di cambiare da un punto di vista sociale e politico la nostra società in un'ottica di non sfruttamento di nessun individuo, compresi quindi anche evidentemente gli animali non umani, come si suol dire. Senti, la vostra attività come si collega a questo tour di questo documentario? Beh, la nostra attività si svolge attraverso iniziative di carattere diverso, quindi sia per esempio le cosiddette undercover investigation, cioè entrare negli allevamenti, nei luoghi in cui gli animali vengono allevati, o entrare nei macelli sotto copertura per mostrare le condizioni terribili in cui essi si trovano e in cui essi si trovano a vivere e poi a morire, oppure anche oltre a ciò svolgere un'azione di carattere culturale per diffondere un nuovo modo di vedere appunto i rapporti tra gli umani e gli altri animali. E in questo secondo contesto si inserisce bene la diffusione di un documentario come quello che sarà proiettato, come ricordavi prima, questa sera a Roma. Di cosa parla The Last Pig? The Last Pig è appunto l'ultimo maiale, che è non solo un titolo e non solo una storia, ma anche un auspicio, cioè che ci sia veramente un ultimo maiale macellato prima o poi. È la storia vera di un allevatore biologico, quindi neanche intensivo, quindi una persona che allevava maiali ritenendo in totale buona fede di fare bene il proprio lavoro e di trattare bene questi animali, che a un certo punto, attraverso la propria diretta esperienza a contatto con questi animali, si rende conto come ci fosse qualcosa di contraddittorio, di disturbante, ecco, in questo concetto che se una persona tratta bene degli animali d'allevamento, allora poi alla fine sia corretto e sia giusto ucciderli. Questo porta questa persona, attraverso un travaglio interiore, a rivedere completamente le proprie scelte di vita, a abbandonare l'attività di allevamento, cosa molto difficile perché su questo si fondava la sua sussistenza, e a diventare anche vegano egli stesso. E questa sera la cosa importante è che sarà presente alla proiezione tanto la regista Alison Argo quanto il protagonista di questa storia, Bob Commis, che è stato invitato da noi qui in Italia e sarà presente alla proiezione e risponderà anche alle domande delle persone eventualmente interessate a conoscere un po' meglio di questa storia molto particolare e molto singolare. Sempre a proposito di macellazione, mi tornava alla mente un documentario che ho avuto modo di vedere quest'estate al Clorofilla Film Festival, con un dato impressionante relativo a quanto ci costa un chilo di carne in termini di consumo di acqua, che invece potrebbe essere usata per ad esempio la coltivazione. Sono 15.000 litri di acqua. Quindi anche in un'ottica vagamente ecologista è evidente che la produzione di carne è un qualcosa di totalmente insostenibile per il pianeta Terra, ed è curioso che quando si parla di ecologia e di clima ci si preoccupi soprattutto, per non dire solo, delle emissioni di CO2, di anidride carbonica, e quando esiste dal 2007 un rapporto della FAO, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che evidenzia come la principale fonte di gas serra, di emissione di gas serra, siano gli allevamenti e non le macchine appunto le macchine con i motori a scoppio piuttosto che i riscaldamenti delle case. Senza contare tutti i campi coltivati per soddisfare le esigenze alimentari dei capi di bestiame. assolutamente quasi l'80% dei cereali coltivati in tutto il mondo sono destinati all'alimentazione non umana ma animale. Sì, un'epoca in cui ci sono migrazioni, ahimè, di massa, di persone che fuggono disperate dalle loro terre perché sono terre inaridite, quindi non coltivabili, o perché fuggono da guerre e da fame, e il fatto che l'80% delle risorse alimentari del pianeta sia destinato ad alimentare animali che verranno uccisi, pur essendo ciò totalmente superfluo, perché si può vivere senza ed estremamente dannoso per il pianeta, ci dovrebbe indurre a riflettere profondamente sul nostro rapporto tra noi gli altri animali e noi la terra, in fondo. Sergio, in chiusura ci dai gli orari dell'appuntamento di questa sera e poi anche tutti i riferimenti internet per saperne di più. Allora, l'appuntamento questa sera è al Cine de Tour in via Urbana numero 107 alle ore 21, alle 21 partirà la proiezione che dura circa 55 minuti, a seguire una sessione di domande e risposte con la regista e col protagonista. Per quanto riguarda le ulteriori informazioni, chi le vuole può andare sulla pagina Facebook o la pagina Facebook di Essere Animali, facilmente reperibile, o altresì la pagina Facebook del documentario, che appunto, come il documentario, si chiama The Last Pig. Lì si troverà foto e, in quest'ultima pagina, informazioni sul documentario, mentre sulla pagina Essere Animali ci sono tante informazioni su quello che facciamo, sulla nostra attività. Io ovviamente ti ringrazio tantissimo per lo spazio che ci hai riservato e per l'opportunità che ci hai dato di poter raccontare cosa stiamo facendo. Sergio, un abbraccio, a risentirci presto. A te, ciao. Gli spettatori, gli ascoltatori, grazie. Sergio Marchese di Essere Animali sul documentario The Last Pig di Alison Argo al Cineclub de Tour oggi giovedì 19 ottobre. Fabio Martina, regista del documentario Che cos'è l'amore, questa sera alla Roma, all'Apollo 11. Fabio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, ieri mi è arrivata la comunicazione di questa proiezione, ho letto due righe, mi ha subito impressionato, e raccontacelo un po', descrivicelo un po'. Questo è un docufilm che è nato nel 2016 perché appunto mi è stato presentato da una mia amica che lavorava per un servizio dell'assistenza del Comune di Milano alle persone bisognose, quelle che sono appena state abbandonate da cari, da parenti. In questo caso si tratta di Danilo, che è un drammaturgo teatrale con una disabilità motoria, rimasto solo dopo la morte dei genitori. Quando ho conosciuto Danilo era già insieme a questo personaggio che si chiama Vanna, che invece ha 96 anni, una pittrice. Io, quando li ho incontrati, mi sono innamorato immediatamente di loro, perché ho visto ciò che poteva essere una storia d'amore universale, insomma, una storia d'amore che potesse superare i limiti e le barriere di quelle che erano i due personaggi per farci vedere qualcosa in più, per farci vedere noi stessi. Per cui ho deciso di girare questo documentario, ci ho messo 8 mesi per prepararlo, e poi insieme a loro abbiamo cercato di ricostruire parte della loro storia d'amore che fosse significativa per un pubblico appunto universale, che non fosse semplicemente la loro ma quella di tutti. In questa piccolo lavoro di 64 minuti. In questa loro relazione, qual è il ruolo del loro approccio artistico alla vita? Il loro approccio artistico è totale, cioè nel senso che diciamo che fa parte di quello che io cerco anche nel documentario, questa l'arte come pensatrice di vita, di energia, anche come rinnovatrice di vita. In questo caso l'arte si fonda esattamente con la vita e con la vita e con il loro amore, che è un amore di fatto simbiotico, cioè un amore che vive del loro stare insieme, ma anche del fatto che sono profondamente due artisti. Quindi io, naturalmente, quando ho lavorato con loro, ho premesso che il documentario che avrei fatto era un lavoro assolutamente artistico, come come credo che sia avvenuto, e quindi abbiamo fatto anche un lavoro molto particolare su loro due, su alcune inquadrature, sulle immagini, quindi quando hanno capito che si stava facendo, ecco. Senti Fabio, volevo sapere anche la curiosità rispetto al mondo che li circonda, come è accolta questa loro storia? Ma la loro storia è assolutamente straordinaria, noi abbiamo fatto, è accolta benissimo sì, dagli spettatori che sono venuti a Milano, è un straordinario per un gruppo, ricevuto molti messaggi da persone che l'hanno visto dicendomi che appunto sono usciti dal cinema con una grande speranza e una grande tranquillità d'animo e di pace. In effetti questo è perché voglio dire, il personaggio sicuramente forte è lei che a 96 anni decide di ritornare a vivere grazie all'amore, cioè decide, si ritrova questo amore, decide di seguire l'amore e così ritorna a vivere, e questo personaggio diventa assolutamente straordinario e potente da tutti i punti di vista. Nel documentario balla e canta, per cui diciamo è veramente appunto una gioia, credo, una felicità per lo spettatore poi che è in sala. Ogni tanto va via la comunicazione, Fabio. Senti, sì. Che percorso sta facendo di proiezioni? Ma il percorso che sì, scusatemi se va via perché sono in treno, sto proprio venendo a Roma perché appunto sono qui con il montatore del documentario Luigi, stiamo venendo a Roma a presentarlo all'Apollo 11, e il percorso che ha fatto è stato straordinario, perché comunque diciamo un anno fa, a ottobre, la Cineteca di Milano decide di metterlo in programmazione dopo una serata dove abbiamo riempito il cinema e c'era coda fuori per mezz'ora. Siamo stati una settimana in sala alla Cineteca di Milano, lo spazio Oberdan, e poi grazie a questa distribuzione indipendente Movie Day abbiamo fatto tante altre date. Ora il documentario, diciamo, che in realtà ha avuto più successo all'estero nei festival, cioè è stato in India, è stato in Cina e andrà a Virrupt al Festival Francese del Cinema Italiano, insomma, come dire, si sta muovendo con le sue gambe per l'Italia. Quindi in maniera straordinaria, anche perché veramente questo è un lavoro che è stato fatto con pochissimo, senza gli aiuti ministeriali, cioè è stato fatto col desiderio e la volontà da parte di chi ci ha lavorato di raccontare questa storia. Mm-hmm. E quindi siamo tutti felici, insomma, e stranamente colpiti da quello che sta accadendo. E vissero felici e contenti, un po' tutti, sì, anche loro che sono ancora insieme, sì, stanno bene. Senti Fabio, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, allora il documentario si può trovare su Facebook, basta andare sulla pagina Facebook, mettere Che cos'è l'amore, Doc Che cos'è l'amore o Che cos'è l'amore, lì ci trovate appunto con la nostra pagina Facebook, dove si possono sapere anche le prossime proiezioni, e poi naturalmente oggi stasera siamo alla Apollo a Roma a presentarlo. Benissimo, alle 21 immagino. Alle 21, sì, tra l'altro sarà una serata particolare perché oltre a me, al montatore, che è stato più che montatore, montautore, io lo chiamo perché senza di lui non sarei riuscito a cavare un ragno dal buco, diciamo, di tutto questo grosso lavoro che abbiamo fatto, e ci sarà. È andata via proprio la comunicazione. Comunque, per chi fosse incuriosito, basta andare questa sera all'Apollo 11 qui a Roma per la proiezione del film Che cos'è l'amore. Lui era Fabio Martina, il regista, e sarà all'Apollo 11 qui a Roma stasera alle ore 21, giovedì 19 ottobre. Maria Luisa Celani, co-direttrice della terza edizione dello Slow Film Fest a Tolfa, dal 19 ciao, ciao. Al 22 ottobre, quindi da oggi un festival che seguiamo dalla prima edizione. Ben ritrovata Maria Luisa. Grazie, ciao. E grazie a tutti voi radio telespettatori. Senti, allora, intanto ricordiamo, oppure diciamo a chi non ne sapesse nulla, quali sono le caratteristiche di uno Slow Film Fest. Allora, le caratteristiche dello Slow Film Fest risalgono al fatto che abbiamo preso spunto dal fatto che Tolfa è una città slow. Una città slow sono un gruppo di comuni che si sono riuniti, circa 200 in tutto il mondo, con meno di 50.000 abitanti, e che hanno una sorta di carta da rispettare, chiamiamola così. Quindi sono concetti legati ai temi slow, quindi l'ambiente, l'identità locale, le diversità, il patrimonio di comunità, la cultura, il rispetto della diversità, la biodiversità. Tutti questi temi noi li affrontiamo attraverso un festival, attraverso quindi delle proiezioni, facendo fare delle passeggiate, facendo fare degustazioni, incontro con le scuole, convegni a tema. Questo è in sintesi lo Slow Film Fest. Bene. Allora, per quanto riguarda il cinema, quanti titoli ci saranno in questa tre giorni? Allora, premetto che Tolfa ha aperto a Roma il 14 e 16 ottobre, quest'anno per la prima volta. E da adesso, da oggi, 19 ottobre, fino al 22, sarà a Tolfa, e avremo diversi ogni sera, dal giovedì, da questa sera alle ore 21 fino a sabato sera, avremo documentari e corto. Iniziamo questa sera con Funne di Katia Bernardi, è una commedia che racconta la storia di un gruppo di ottantenni che non hanno mai visto il mare e che vengono trascinate attraverso una raccolta fondi verso il mare. E dopodiché domani proseguiremo con due documentari, passando le reti di Aldo Milè e Marco Saverio Lo Perfido, parla e racconta della storia dei pescatori di Montalto di Castro. Poi ci sarà un documentario bozzetto ma non troppo di Marco Bonfanti, un omaggio al grande disegnatore Bruno Bozzetto. Infine concluderemo questa serie di proiezioni di documentari il 21 sera, sempre alle ore 21, ingresso gratuito. Le figlie sono come le madri, Donne lungo la via della seta di Lisa Castagna. Ha fatto un percorso lungo il tragitto della via della seta per raccontare appunto questo passaggio anche di mestieri tra madre e figlia. Tutti questi documentari saranno preceduti da cortometraggi, un cortometraggio di animazione Second Hand, cortometraggio in collaborazione con l'Accademia di Cinema e Televisione Griffith di Roma, come Acquario, Umani e Solenne Triduo dei Morti, che è un docu corto di Andrea Grasselli e parla di una tradizione religiosa che ogni anno si mantiene da sempre ed è molto interessante da un punto di vista antropologico. Quindi sono la partecipazione sia alle proiezioni che alle passeggiate che alle degustazioni, al convegno, sono tutte ad ingresso gratuito, a partecipazione gratuita. Senti, considerato che è arrivato alla terza edizione, volevo sapere da te come è stato accolto da Tolfa, come risponde il paese. Ma guarda, il paese risponde bene. Noi ci prefiggiamo di non attivarci solo sul paese, ma di riuscire a coinvolgere nel tempo anche persone che possano arrivare da fuori, anche dalla stessa Roma, per passare, perché l'obiettivo è quello di fare un'esperienza alle persone che arrivano a frequentare il nostro festival. Infatti un fine settimana passandolo tra passeggiate, degustazioni e proiezioni e incontri, questo è il nostro obiettivo, per far conoscere il territorio, per parlare anche di altri territori, di altre tradizioni. E tutto questo logicamente noi riusciamo a farlo anche grazie al sostegno della Regione Lazio, però resistiamo, chiamiamolo così, anche grazie alla collaborazione di tante associazioni con le quali noi interagiamo e con le quali creiamo appunto una collaborazione. Senti, una curiosità da escursionista, la gita di domenica, raccontaci un po'. Allora, la gita di domenica è un'escursione, infatti si raccomandano le scarpe da trekking. Certo. È organizzata da Giordano Iacomelli, che è un archeologo e direttore del Museo di Tolfa, ed è legata alla strada del Cavalluccio. quindi è una strada che porta alla Rocca, in poche parole, ma non quella classica, ma strade differenti di percorso alternativo, storiche. E vi aspettiamo, logicamente, se potete iscrivervi è meglio, al seguente indirizzo: info@muovileidee.it. Muovi le Idee è l'associazione culturale che promuove e organizza lo Slow Film Fest. Benissimo. Allora, Maria Luisa, mi sa proprio che ci vedremo a Tolfa per questa terza edizione dello Slow Film Fest, da oggi fino a domenica 22. Un abbraccio, in bocca al lupo. Un abbraccio e crepi il lupo. Ciao. Alessandro D'Alessandro, regista del documentario Barbiana 65, La lezione di Don Milani, che è in tour dallo scorso lunedì 16 di ottobre. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie a voi, grazie. Allora, si tratta di materiale d'archivio inedito. Sì, è veramente l'unico documento, diciamo, esistente, inedito, che abbiamo restaurato con Don Milani in scena, diciamo, ci sono le sue parole, il suo volto e i ragazzi. Dicembre 65 è esattamente il periodo in cui fu girato ed era andato perduto. Quindi per me è stata una doppia gioia, sia come figlio poterlo recuperare, e poi anche non è stato facile, perché bisognava riabbinare le bobine audio che erano, diciamo, in quantità maggiore rispetto alla pellicola in 16 mm. Sì, ecco, quindi sì, è stato grazie all'Istituto Luce che abbiamo potuto fare un lavaggio della pellicola e poi lo abbiamo davvero riportato alla luce. Senti, ci racconti un po' di questo recupero di figlio di un'opera di tuo padre? Sì, beh, io ovviamente se n'era parlato spesso in famiglia, sapevo di questo materiale, di questa esperienza unica che aveva vissuto mio padre Angelo D'Alessandro lì a Barbiana nel 65, e in effetti lui era salito lì per fare diciamo, un'inchiesta sull'obiezione di coscienza. Era salito nel Mugello in Toscana perché aveva letto la lettera che Don Milani aveva scritto ai cappellani militari, che poi aveva provocato, diciamo, un vero e proprio polverone e un successivo processo per apologia di reato. Sostanzialmente però poi mio padre, trovatosi lì, si rese conto che c'era, come dire, che era estremamente più interessante tutto quello che accadeva, e quindi si instaurò evidentemente un rapporto di fiducia, perché Don Milani dopo qualche giorno consentì a mio padre di girare. Evidentemente aveva ritenuto di trovare mio padre la persona giusta. Lui era già molto malato, sarebbe morto poi nel 67, per riprendere, diciamo, il più fedelmente possibile i ragazzi, alcuni aspetti della scuola di Barbiana, ecco. Senti, era salito su anche con due film, tra l'altro, ecco, con due film da mostrare ai ragazzi, cosa che avvenne. Uno era Tragedia nella miniera di Pabst e l'altro Ombre rosse di John Ford, e anche in quell'occasione i ragazzi li visionarono più volte per poi tirar fuori delle considerazioni che lasciarono di stucco mio padre, perché dimostrarono soprattutto che Tragedia nella miniera non era un film così così efficace e profondo sul tema della pace per una serie di motivi. Senti, che impressioni hai avuto da questo girato? L'emozione è stata fortissima, immagino la stessa che ebbe mio padre nel vedere in carne ed ossa, con tutto il suo carisma, il suo modo proprio di quasi spietato di ragionare con i ragazzi, e quindi, come dire, abbiamo deciso che la cosa più importante fosse di farlo arrivare alle persone, al pubblico, soprattutto ai giovani, nel modo più incontaminato possibile, diciamo, senza creargli intorno una tesi di tipo storico o comunque sia, senza cercare di dimostrare alcunché. Direi che le immagini e la voce di Don Lorenzo parlano da solo. Il tema centrale è la coscienza, sostanzialmente, il tema della coscienza, dell'obbedienza, della giustizia, della solidarietà, della scuola, che deve permettere proprio a tutti di diventare sovrani di se stessi, che è una delle frasi proprio fondamentali di Don Lorenzo. Ecco, proprio a questo proposito, che ne è dell'esperienza della scuola di Barbiana, secondo te? Cosa ci ha lasciato in eredità? Cosa ha lasciato a questo paese? Beh, qui diciamo le cose più importanti credo le abbia dette Adele Corradi, che è una delle nostre testimoni attraverso cui noi riusciamo a costruire il racconto, perché lei sostanzialmente in un primo incontro quasi un anno fa vide questo materiale e lo considerò un fossile, così è stato anche nella presentazione a Venezia che c'è stato del documentario, e invece siamo riusciti a ridare vita a questo fossile, e lei stessa dice delle cose molto importanti, ritiene che Don Milani vada sfruttato il più possibile, soprattutto dagli insegnanti, dalla scuola oggi, per esempio per quel che riguarda la possibilità di fare di mettere in atto la scrittura collettiva o la lettura dei giornali, i ragazzi più grandi che possono insegnare a quelli più piccoli, tutti i temi e tutte cose che Don Milani realizzava lì a Barbiana. Quindi è un'occasione, bisognerebbe tradurre la lezione di Don Milani oggi, in continuazione. E soprattutto poi c'è il discorso che noi abbiamo cercato di mettere in luce nel modo più evidente possibile grazie al contributo di Beniamino Deidda, che è appunto il concetto di cercare di, come dire, di rispettare le leggi quando sono giuste, ma di combattere per cambiarle se non sono più giuste. Cioè, sviluppare lo spirito critico nei ragazzi di oggi diventa il punto centrale, e questo lavoro vuole stimolare, insomma. Quindi c'è molto da attingere. È una miniera, Don Milani. Senti Alessandro, che percorso farà il tuo lavoro? Nel mio lavoro adesso? No, il tuo documentario, insomma. Ci auguriamo davvero, adesso che viene diffuso nelle varie sale, in varie città italiane, che possa anche arrivare in televisione, verrà fatto un DVD, però sostanzialmente a me quello che preme è che venga mostrato ai giovani in tutti i luoghi nel modo migliore, perché credo davvero che sia un punto centrale questo, che i giovani possano capire che possono davvero essere sovrani di se stessi, scegliere da che parte stare, se a loro vengono dati gli strumenti, quelli giusti, da parte della famiglia, della scuola evidentemente, per poter fare delle scelte che siano delle scelte, questo a prescindere che credano o meno, no? Come giustamente poi sottolinea Adele Corradi proprio nel finale del nostro documentario. Il Vangelo è per noi, lo abbiamo un po', come dire, abbiamo sottolineato il fatto che è un testo etico e politico, ma allo stesso tempo la Costituzione diventa un testo i cui valori vanno in continuazione verificati, rivisti, riproposti. Ecco, questi sono i due punti. Senti, in chiusura, Alessandro, dei riferimenti internet per saperne di più? Sì, beh, c'è sul sito del Luce, di Cinecittà Luce, quindi credo che sia www.luce.it, c'è proprio una pagina dedicata a Barbiana 65, e credo che sia in via di costruzione anche un sito su Facebook, sempre di Barbiana 65, e poi c'è un trailer che sta girando di circa 2 minuti e mezzo sul film, sui vari social, credo che sia riportato veramente anche dai vari siti delle varie sale cinematografiche e del circuito anche collegato alle scuole, quindi credo che in rete ci siano diversi modi di poter approfondire e eventualmente andare a vedere questo film. Bene, ecco. Alessandro, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie a voi, grazie tantissimo. Ciao, ciao, ciao. Alessandro D'Alessandro, regista del documentario Barbiana 65, la lezione di Don Milani, in tour dallo scorso 16 ottobre, e con lui chiudiamo questo appuntamento settimanale di Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. In diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page dove c'è Ascolta la diretta, e sull'home page, colonna centrale alla voce Trasmissioni Visionari, trovate anche la scaletta della trasmissione e tutte le informazioni sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.